La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Puntata di fine anno, puntata riepilogativa, puntata compendium, potremmo chiamarla questa, della nostra Rosa Purpurea, perché è arrivato il momento di fare un bilancio, almeno per tutto quello che è successo durante questo 2016 al cinema, ma anche di presentarvi quel manipolo di film, sono sempre più numerosi però, che escono proprio a cavallo di questi giorni, addirittura alcuni il 1° gennaio, altri proprio sono nelle sale da poche ore. Per far questo bisogna che qualcuno tiri una riga e faccia i conti, e noi abbiamo chiamato Luisa Morandini, che è qui Buongiorno. Con noi. Ciao Luisa. Luisa è una donna, un dizionario, anzi una dizionaria, potremmo ormai dire. Sì. Esatto. Hanno detto di cambiare il nome, di farlo La Morandina. La Morandina, sì. Anzi, che... guarda, ne approfitto per così ricordare Morando, tuo papà, che proprio un anno fa ci lasciava, sì. Insomma, è stato un maestro sicuramente per me, ma per molti della mia generazione. E questo è il primo dizionario, senza il suo aiuto hai dovuto lavorare il doppio. Sì, ho dovuto lavorare il doppio, ma soprattutto è stato proprio molto strano lavorare senza... cioè, che manchi il papà è ovvio che è un dolore per tutti, ma il mio era anche il mio capo, il mio collega. Abbiamo lavorato 30 anni insieme, a parte il dizionario. Poi parleremo anche di quelle, sì, che sono i lasciti di Morando, okay, alla fine della trasmissione. Benissimo. Perché qualcosa c'ha lasciato. Certo, deve essere stato ben strano, però il dizionario è lì, il Morandini, e noi abbiamo voluto dire, beh, perché non facciamo l'ultima puntata insieme? Ci mettiamo lì e raccontiamo i 10 film più belli del 2016, di quest'anno che ci sta lasciando, proprio con Luisa Morandini, con i giudizi del dizionario, a cui noi aggiungeremo ovviamente i nostri, e poi appunto uno spiraglio su quello che succede nel 2017 nei film che sono prossimi all'uscita, ma anche in quelli che sono invece un po' più là da venire, ma che vale la pena puntarsi sul taccuino, perché sarà un anno con tante uscite importanti. Allora, andiamo subito nel vivo della trasmissione. L'abbiamo organizzata come un hit parade, quella del grande Lei Luttazzi, no? Partiamo dal 10° posto e andiamo verso il primo. E al 10° posto, nei giudizi del Morandini 2017, c'è Perfetti Sconosciuti. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto "c'ho voglia di scovare". Tante volte può essere il T9, eh? Parla, sono i tuoi migliori amici, magari anche loro vogliono sapere, no? Dammi quel telefono. Dammi quel cazzo di telefono! Ma non mi dici chi sei? Poi mi dici da quanto dura! È stata una vera e propria rivelazione quest'anno questo film di Paolo, sì, Genovese, Perfetti Sconosciuti, e l'assunto, Luisa, era veramente interessante. Molto, era in ballottaggio per la copertina, infatti, addirittura. Perché... che poi avete dato a? A Pazza Gioia. A Pazza Gioia, insomma, è anche quello, insomma, un film, sì, che ha contrassegnato il 2016. Però questa aveva questa sì, cosa dei segreti che si nascondono dietro i nostri cellulari. Le nuove tecnologie ci hanno anche dato una privacy molto strana, ma anche la possibilità, come dire, di deviare molto, no? Sì, anche un po' la schiavitù di tutti noi nei confronti dei cellulari, perché ancora un po' siamo noi che siamo regalati ai cellulari e non viceversa. Sono una presenza nella vita di tutti quanti, e può essere una presenza molto inquietante e molto a rischio. Assolutamente. Cast strepitoso. Assolutamente, un cast con Beppe Battistona, Anna Foglietta, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Edoardo Leo. Non so quanti di noi si sentirebbero in cuor loro di dare il proprio cellulare senza chiavi a qualcuno. Secondo e dire guarda pochi. Tutto quello che c'è nelle mail, nei WhatsApp, in tutto quello che scriviamo quotidianamente, perché poi c'è una cultura dello scritto multimediale che, certo, è proprio diversa da quello che ci dicevamo al telefono, per, sì, esempio, sì, sì, no? Anche lo stile, voglio dire, non si usa più la punteggiatura, ci sono tutte queste abbreviazioni, questa comunicazione sempre più fast, sempre più sintetica. Però il pregio del film è che fa ridere come pochi, parte come una commedia, sfiora il dramma, l'analisi psicologica, cioè, notevole, e tra l'altro diciamo che Paolo Genovese lo mette anche dentro una scatola che è quello della commedia amara da camera, potremmo, sì, chiamarla, che ha, almeno per quanto riguarda gli anni recenti, un suo rifiorire con Carnage di Polanski, se vuoi, no? Sì, e poi le varie cene, poi tutte, sì, le cene, eccetera eccetera, perché mettere insieme i personaggi in un ambiente chiuso dal quale possono scappare difficilmente funziona molto e non ha niente di claustrofobico. claustrofobico, tra l'altro, questo in particolare, per cui è proprio vivace, devo dire, mi è proprio piaciuto da tutti i punti di vista. E si prende qualcosa come 3 pallini e mezzo sul Morandini. 3 e mezzo, il Morandini va da 1 a 5, insomma, sì. Cioè, 3 e mezzo è 7, insomma, sì, è 7 in pagella, sì. Per cui è un bel voto, 8, sì, all'8. Assolutamente. Allora, andiamo avanti, 9° posto, sempre con 3 punti e mezzo, per un film che ha molto diviso, un film firmato Fratelli Coen, si intitola Ave Cesare. Ave Cesare è un film di prestigio con una delle maggiori star del mondo, Baird Whitlock. Signor Mannix. Che succede? Il regista non trova Baird Whitlock. Abbiamo la tua star. Metti insieme $100,000 e aspetta istruzioni. Ciao, Bert. Signor Mannix. Lawrence Toby, grazie di essere qui. Gli studi hanno bisogno di aiuto. Baird Whitlock è stato rapito. Che brutta storia. Per tutte le stelle del cinema. Sono passate 24 ore, ma lo stiamo cercando. Vorrei sapere che diavolo succede. 20 milioni di lettori vogliono la verità, Eddie. La verità, sì. Eddie? Ancora una volta i fratelli Coen mettono insieme un cast d'eccezione, loro sanno scegliere gli attori come pochi, devo dire, qui George Clooney, Josh Brolin, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, per raccontare ancora una volta una storia che sta dentro i lati oscuri del cinema, no? Qui questa funzione del fixer, di colui che aggiusta le situazioni scandalose, difficili, un po' conturbanti sul set, e con una commedia molto raffinata, fammi dire, Luisa, ai limiti quasi in certi momenti del, non dico dell'incomprensibile, però del molto molto chiuso, sì, ecco. Sì, molto, molto, diciamo, per un pubblico d'élite, elitario, ecco. Ma i Coen sono un po' come Allen, no? Di solito, cioè o si amano pazzamente o si odiano pazzamente. Tra l'altro loro sanno mettere insieme il cast, ma sanno anche dirigerlo. Cioè, prendono gli attori e li ribaltano in personaggi completamente diversi dai loro canoni e dai loro cliché, questo è anche uno degli aspetti divertenti loro. Questo è un film per chi ama il cinema, cioè è ironico, è dissacrante, è amaro e tutto, però è talmente pieno di citazioni. Molto, molto, molto pieno, molto pieno. Ed è infatti tutta una rincorsa anche a cercare di ricordarsi le cose, e poi a momenti e accelerazioni invece di improvvisa leggerezza, come la scena musical che diventa, se vuoi, indimenticabile, certo. Quando a un certo punto i marinai si mettono a ballare in questa specie di saloon, di bar, no? Certo. Ma anche quelle poi sono citazioni di varie. Tra l'altro, secondo me, molte poi ti sfuggono, devi vederlo 2 o 3 volte, per cui prendi nota e cerchi di fare l'elenco dei film citati. E il tutto, tra l'altro, per raccontare, Luisa, anche una storia che ha tutto un dialogo su Gesù e sulla teologia sullo sfondo, no? Sì, sì, certo. No, ma poi loro sempre usano il surreale, il demenziale in alcuni casi, e l'ironia poi per affrontare temi seri, che possono essere politica, crisi economica, religione. Beh, poi sfumature religiose ci sono sempre nei loro film. Assolutamente. Beh, insomma, allora, anche Ave Cesare si è preso, tutti questi film, segnateveli, perché poi, voglio dire, ci sono già in giro i DVD, ci sono in giro i Blu-ray, per cui se li avete persi, questi si recuperano, perché tutta buona, buona mercanzia di questo 2016. Sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo, ci sono anche altri 2 film che hanno preso i 3 pallini e mezzo. Andremo in 7ª posizione con un film che ho adorato, trovo sia il migliore della sua serie di animazione, ovvero Kung Fu Panda 3. Fra poco. La Rosa Purpurea. Puntata speciale della Rosa Purpurea, questa di fine anno, con Luisa Morandini qua con noi per fare un po' il compendio del 2016, i film più belli, i 10 film più belli della stagione, che dell'anno solare che ci sta lasciando, anche a seconda appunto dei giudizi del dizionario Morandini 2017. Abbiamo detto 10° posto per Perfetti Sconosciuti, il posto numero 9 per Ave Cesare dei Coen, e adesso al numero 8, sempre con 3 pallini e mezzo di valutazione su 5, troviamo Kung Fu Panda 3. Chi sei tu, papà? Dal tuo vecchio un abbraccio! Vieni con me, c'è un villaggio segreto dei Panda sulle montagne. Wow! Benvenuto a casa, figliolo. Kai è tornato! Chi? Il maestro del dolore, la bestia della vendetta. Ti crea vedove? Non conosco. Vabbè, ho lavorato con Oogway. Oh, oh, il maestro Oogway! Silenzio! Arriva per i Panda. Devi insegnare loro a combattere. Io sono pronto. Sei pessimo. È uno dei rari casi, Luisa, in cui un film, il terzo film di una saga come questa di Kung Fu Panda, soprattutto nell'animazione, dà molto ma molto di più degli altri, che pure erano molto belli, molto divertenti, ma qui mi sembra che ci sia una profondità, una terza dimensione straordinaria, a partire dalla trama di questo panda che finisce nel paradiso dei panda, dove tutto è perfetto, il mondo ideale dei panda, ma deve difendersi dall'assalto del male. E devo dire che anche l'immaginario del male è veramente notevole, questa sorta di limbo disegnato dai collaboratori di Alessandro Carloni, che è il regista italiano di questo film, grande esperienza. Grande esperienza internazionale nell'animazione americana, però insomma uno che parla la nostra lingua, un nostro connazionale, avevamo anche intervistato all'epoca, mi ricordo, dell'uscita del film. Ecco, c'è quindi la possibilità di fare uno scatto in più, forse era successo solo con Toy Story 3, così sì, a memoria anche a me, anche io ricordo Toy Story 3, era strepitoso rispetto anche agli... Beh, il primo era forte perché era il primo, certo, sono grandi quindi... idee dall'inizio, però anche ma questo Kung Fu Panda 3, cosa vi ha convinto? Io credo che sia anche perché ha allargato il target, no? Approfondendo il tema non soltanto delle arti marziali e della... ha coinvolto ancora di più il pubblico anche degli adulti in forma diversa rispetto al pubblico dei bambini, per cui io credo che per questo ha fatto uno scatto ancora. L'altro grande caso di questa annata cinematografica è stato, lo chiamavano Gigrobo. Tu conosci Gigrobo d'acciaio? Chi? Ma che pure te c'ha la spada lata? La spada chi? Ma te sei il supereroe, ma mica quando ha rubato c'è un sacco di gente da salvare. La verità io con sta gente è per questo che c'hai poteri. Ma che è colpa mia se sto Superman si è messo in mezzo? Io solo una cosa voglio sapere. Ma tu chi cazzo sei? Cioè, però amore mio, quando ti trasformi ti devi cambiare queste scarpe. C'è un supereroe che le scarpe di camoscio non si è mai visto, dai. Straordinario davvero, sì. Alcune delle battute del film che ci ha veramente schiantato, sì. Devo dire tutti, siamo rimasti ammaliati da tutti, almeno quelli che ho sentito, molti. Sì, dallo spessore, sì. Dalla capacità di farti ridere, di farti piangere, di avere un protagonista molto credibile e di fare finalmente un film di supereroi all'italiana e nell'accezione migliore, come si diceva, di commedia all'italiana. Qui siamo a supereroi all'italiana. Con tutti i crismi, ecco, senza farti sentire la mancanza di niente. No, la cosa incredibile, cioè, a parte la sceneggiatura che non perde un colpo, che il regista l'ha scritta con Guaglianone, ha saputo inserire il supereroe senza perdersi nessuna delle caratteristiche del supereroe, cioè il cattivo, gli effetti, la ragazza amata, in un contesto di mafia capitale, di Roma, di quasi neorealismo italiano, con dialoghi divertentissimi, con tutte le caratteristiche del genere invece mafia, iperrealismo, eccetera. Pazzesco, cioè, è un'operazione intelligente perché diverte, coinvolge tutto il grosso pubblico e non è il cinepanettone. Assolutamente, ma scherziamo, ma poi ci mette davanti anche alla, come dire, alla capacità dei nostri attori in questo caso. Sì, no? Qui abbiamo da una parte la grandissima performance di Claudio Santamaria, dall'altra quella di Luca Marinelli e non dimenticherei Ilenia Pastorelli perché... Ha preso tutti Davide Nuadatello. Hanno fatto incetta proprio, ma mani basse. Ed è il film. Allora ti chiedo, bravi attori che forse hanno anche, come dire, segnato sicuramente uno strappo nella loro carriera, qualcosa che può connotarli diversamente. Grande film, grande intrattenimento, 3.5 ai due casi italiani dell'anno. Cosa gli manca per fare 4, per esempio? Allora, i pallini vanno inseriti nel genere, cioè i 3.5 di un film di animazione sono tanti, i 3.5 di un film di supereroi sono tanti, perché è comunque un genere, diciamo, che non è considerato le basi e le fondamenta della storia del cinema. Poi comunque Morando era molto severo sui 5. Se uno si vuole fare così come giochino, vedere quanti film hanno 5 pallini, non sono tanti, sono... Il nostro obiettivo è arrivare ai 100. Quanti film ci sono nel dizionario? Allora, sul CD 26.000, 27.000. Ecco, per cui insomma, 100 su 27.000. Non ce ne sono neanche 100 su 27.000. No, sono veramente pochi. E allora, lo chiamavano Gigrobo, il quarto film, diciamo, partendo dal decimo posto e risalendo verso il primo. Siamo arrivati al sesto posto ed è Whisky Tango Foxtrot. Il network ha bisogno di reporter in Afghanistan. E voi, ragazzi, siete i single senza figli di questa redazione. Kim, saresti disponibile a farlo? Di andare laggiù o piangere? Tutti abbiamo un motivo per essere qui. Qual è il tuo? Volevo scappare dal mio lavoro. Volevo scappare dal mio lunatico fidanzato. Che stiamo facendo, Kim? Volevo cancellare tutto. È la migliore storia della donna bianca americana che abbia mai sentito. Quegli stronzi volevano ammazzarci! Ora, Baker, brava. E allora, Luisa, questo è un film sorprendente, devo dire, sì, nella top 10. Non perché non sia un buon film, ma perché mediamente è passato un po' inosservato, se vogliamo, sì, anche, no? Nelle nostre sale e con i nostri ascoltatori. Cosa vi ha colpito di questo film? Allora, il film contro la guerra, film che raccontano gli orrori della guerra in modo critico e intelligentemente critico, quindi non abusando delle immagini orrorifiche. Ce ne sono tanti ormai, grazie al cielo. Questo ha dei toni completamente differenti, nel senso che è commedia, è al centro della vicenda c'è una donna, peraltro un personaggio vero perché è la biografia di una giornalista, Kim Baker si chiamavano. Avrebbe potuto essere un film di largo consumo, proprio per la leggerezza dei toni, perché è divertente, ci sono anche parti spiritose, ironiche. Cioè, certo, certo. Come tanti film buoni, non ha la risposta che merita. Forse anche perché quel pubblico lì, che è quello che mi fa pensare ai film sui giornalisti degli anni 70-80, sì, no? Cioè, forse è il pubblico anche che è un po' cambiato e magari il pubblico di sala, almeno in Italia, si è un po' spostato da quel tipo di cinema. Sì, un po' anche, magari purtroppo, eh. Sì, sì, sì, no, il giornalista d'assalto non fa più, non suscita più il grande interesse del pubblico, anche perché ce ne sono tanti con la televisione, ormai vediamo di tutto, per cui stimola meno la fantasia e l'identificazione. Certo, ecco, certo, assolutamente. Lei è bravissima, peraltro, di una prima, Margot però, Robbie che... Sì. Però, non lo so, a me è sembrato un film che andava, valeva la pena supportare con un mezzo in più, perché eravamo indecisi tra 3 e 3.5. Certo. Peccato che non ha avuto il successo che meritava, ecco. Sono 5 film a 3.5 e siamo adesso nella top 5. Adesso arriviamo ai 4. Arriviamo ai 4. Arriviamo ai 4 e mi fa veramente piacere trovare un altro film italiano che si intitola Fiore. Lui è mio padre. Il tatuaggio con nome mio si è fatto. Mi manca ancora un anno, però se chiedo l'affidamento in prova a casa con te posso uscire da qua. Non è il momento. Io non me la sento, devi avere un impegno del genere adesso. Ci hai pensato. Ma tu perché sei qua dentro? Rapina. Tu? Pure io per rapina. Piacere comunque, eh. Josh. Daphne. Tu ce l'hai qualcuno fuori? No. Tra un anno ci vediamo fuori, liberi, dov'è che vuoi andare? A Ibiza, perché c'è il sole, il mare, le feste. E allora ci andiamo insieme a Ibiza, ti va? Magari. Il film della conferma di Claudio Giovannesi come regista molto asciutto, capace di raccontare senza fronzoli storie che ti prendono veramente l'anima. La storia in questo caso di due ragazzi che si conoscono in carcere, due da cose piccole, due pesci piccoli, sì, insomma, no? Che sono lì però a scontare la loro pena e che si conoscono e si amano in questa istituzione che viene raccontata anche con grande profondità nel film. Un film che vede, secondo me, il volto così intenso, così particolare di Daphne Scoccia svettare su tutto, cioè questo è una faccia che ci ricorderemo, sì, certo, al cinema e che sono certo vedrà nelle prossime stagioni un largo impiego, e poi un Valerio Mastandrea che riesce sempre a dare quel valore aggiunto e quel tocco di realismo che ti fa sentire dentro la pellicola tutte le volte che lo vedi. Partiamo da lui. Io trovo che sia uno degli attori più eclettici, più bravi e più impegnati e più seri che ci sono attualmente nel cinema italiano. È una via di mezzo tra i giovani e gli adulti, lui. Bravissimo. Sostiene anche altri colleghi, attori, registi, per cui onore a merito a tutto ciò che fa. Non a caso Giovannesi ha fatto volontariato nel carcere minorile. Si sente lo sguardo e il linguaggio, come dicevi tu, secco, asciutto, che senza sdolcinature inutili, senza, ma capace di trasmetterti anche delle emozioni profonde, da brivido in certi momenti. Beh, un 4 a un film italiano, insomma, è il film italiano, non è ancora detto che sia il film italiano più in alto in classifica, fra poco lo scopriremo. Andiamo avanti al quarto posto dell'anno 2016, c'è Quentin Tarantino con The Hateful Eight. Cosa spinge un uomo ad affrontare una bufera e a uccidere a sangue freddo? Vi assicuro che non lo so. Ok, statemi a sentire. Tutti, accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di $10,000. Quel denaro è mio, fanciulli. Oh, interessante. Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile. Ma nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile. È stato uno dei film più attesi di questa stagione, lo era già prima della stagione e poi man mano che stava arrivando la prima assoluta Cinecittà, dove è stato ricostruito una specie di set con tanto di neve, di saloon finto, per una sorta, possiamo chiamarlo di western da camera, perché veramente tutto western si svolge teatrale. Assolutamente teatrale, si svolge tutto dentro questa stazione di posta nella quale arrivano questi personaggi che cominciano a guardarsi in cagnesco dall'inizio e tutto lascia presagire che alla fine si risolverà in una mattanza, se no non era Tarantino. Con entrate e uscite proprio di tipo teatrale. Questo è un tratto, anche Tarantino, anche questo film è uno molto amato e molto odiato. In particolare questo film non è che sia piaciuto poi così tanto alla maggior parte dei colleghi. Qualcuno ha parlato di esercizio di stile, insomma, no? Però sì, che stile? Ma che stile, appunto, lo è anche, però è anche un film che appunto che è cinema, che è teatro e che è storia, perché comunque è un modo originale di raccontare la storia. Però tutto il resto è botte, Tarantino fa proprio, fa i fuochi d'artificio ogni volta. Assolutamente, ma il divertimento non manca mai, ho avuto anche la fortuna tra l'altro di vederlo in 70 mm, perché lui poi da grande cinefilo quale è, ha voluto fare la proiezione in 70 mm con la pellicola a 70 mm, vista all'Arcadia di Melzo dell'amico Pierino Fumagalli, sempre avanti con le sue tecnologie cinematografiche, ed è stato veramente un piacere per gli occhi. Pazzesco. Incommensurabile, un film che ti riempie fino alla fine. Allora 4 su 5 anche a The Hateful Eight, un altro balzello in avanti, il quarto film italiano di cui parliamo, lo facciamo però fra poco, prima la linea alla regia, ci sarà ovviamente da parlare e da discutere del grande successo della Pazza Gioia. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un'autoradio digitale. DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio. La rosa purpurea. Dice, sto troppo male per tenere il bimbo. Una mattina vengono a prendermelo in otto, c'è anche i carabinieri. Allora curatemi, no? Datemi Elia, che mi curate levandomelo. Tentativo di suicidio in detenzione? Te un po' di cazzi tuoi mai! La macchina! Abbiamo anche una macchina, ci diamo una pezza gioia! E allora le avete sentite, le grandi protagoniste della stagione cinematografica italiana, di questo film si è parlato tanto, Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, nel film di Paolo Virzì, La Pazza Gioia, che ci ha fatto veramente commuovere, anche qui con la capacità però di fare cinema, non mai fine a se stessa, ma con un racconto, un'iperbole continua di queste due donne così diverse ma così indispensabili l'una all'altra nel momento in cui da questa casa di cura, da questa struttura sanitaria evadono, scappano proprio a un po' alla, si è detto e si è abusato del termine di Thelma e Louise, ma insomma per intenderci, e vanno a cercarsi la loro pazza gioia, forse per ritrovare finalmente se stesse. Ecco, io ho trovato l'interpretazione Luisa della Valeria Bruni Tedeschi superlativa, perché lei è un'attrice molto strutturata e, come dire, saper fare questa cosa e soprattutto la gioia che ci ha messo dentro e che ha rappresentato nel film è stata incredibile. Di Micaela Ramazzotti, a parte che sono totalmente innamorato di lei, posso dire che vale il discorso che abbiamo fatto per Valerio Mastandrea, cioè un'altra che riesce a dare secondo me una tale verità ai personaggi che interpreta che non puoi rimanere indifferente. No, sono d'accordo. Abbiamo dedicato quest'anno la copertina del dizionario proprio a questo film e alle due attrici proprio per questo, perché è un film molto profondo su due personaggi femminili, sull'amicizia femminile, ma anche sui diversi e su come i diversi vengono emarginati, estromessi dalla società, defraudati dei loro ruoli, delle loro cose, dei loro affetti. Le due sono pazzesche, sono agli antipodi come personaggi e come anche come tipo di recitazione. La Valeria Bruni Tedeschi è anche in un ruolo abbastanza diverso dai suoi soliti. E la Ramazzotti, anch'io sono innamorato di lei, anche se in chiave femminile, è bellissima e bravissima, è intensa e non ha paura di mettersi in gioco, di imbruttirsi quando serve. Poi vabbè, mi divertiva anche l'idea, perché il personaggio della Valeria Brunetti Tedeschi si chiama Morandini. Ecco, e quindi è vero, Beatrice è vero. Morandini, Beatrice Morandini, figlia di una famiglia che affittava le ville a Cinecittà, però devo ancora chiedere a Virzi come mai, perché ci siamo scritti delle mail quando le abbiamo messe in copertina, che peraltro è un omaggio comunque a Thelma e Louise, la copertina con la macchina rossa. Beh, la macchina rossa, lei col foulard, sì. Come dire, no? Piccola nota personale, anche io ho una macchina rossa quasi uguale, mi chiamo Luisa, per cui siamo... Ecco, ti chiami anche Morandini. Oltretutto, cioè, ci manca il foulard, qui non si può vedere in radio. Non poteva non essere. Senti, Luisa, ma non era un film da Oscar? Sì, secondo me sì. Senza poteva... togliere nulla alle scelte che sono state fatte, a Rose, eccetera, ma... Si poteva avere, bisognava avere coraggio però per dare un Oscar, perché è davvero un film che al pubblico italiano è piaciuto molto, però è un film forte, è un film sui diversi. Certo, però gli Oscar hanno spesso amato questo, è vero, i Rain Man, sì. e compagnia poteva bella. Essere una buona occasione, è sempre una scelta difficile, quindi non sai mai come cade. Non sappiamo poi come. Senti, allora, La Pazza Gioia, quattro pallini, siamo arrivati al secondo posto, e al secondo posto c'è un film di una drammaticità incredibile, totale, che ti contorce le budella, una ennesima ricaduta su un tema che penso non finirà mai di alimentare il cinema, come quello dell'Olocausto, ma ogni volta riesce ad aggiungerti delle cose quando il cinema è fatto bene, e in questo caso Il figlio di Saul lo è. Ascoltiamo la clip e ne parliamo. Sì. Il ragazzo, dov'è il ragazzo? L'ho portato al sicuro, ho dovuto nasconderlo agli altri dottori. Non puoi scambiarlo con qualcun altro? No, devo fare l'autopsia, devo documentare tutto. Vieni. Laszlo Nemes racconta il terrore dell'Olocausto in una maniera incredibile, perché mette lì un protagonista, un padre, in un campo di sterminio, sì, che riconosce o crede di aver riconosciuto, chi lo sa, questo lo sa. Alcuni hanno dato risposte nette, anche sì. Io sono della tua idea, anch'io mi sono uscito dal cinema dicendo, ma è tutto vero o no? Non importa, però facciamo che riconosce appunto il cadavere di suo figlio, lui ha detto alla pulizia dei cadaveri, il cadavere di suo figlio, e deve attraversare tutto il film con questa terribile ansia, angoscia addosso, ma senza farsi vedere dagli aguzzini. E questa è una cosa, trovo che sia un viaggio nell'incubo ancora più forte di qualsiasi altro film appunto sull'Olocausto ci abbia dato a vedere. Ma io credo che sia stato fatto, almeno nella mia percezione, sia stato fatto così anche perché purtroppo i film sulla Shoah continuano a essere necessari. Non solo per gli orridi negazionisti che continuano a tentare una strada allucinante di negare una realtà ormai, ma anche per i giovani che tendono a dimenticare o non sanno abbastanza o non si rendono conto abbastanza di che cosa deve essere stato. Qui forse, spostando un po' la narrazione, la storia, la vicenda, si colpisce ancora più duramente. Devo dire che però a colpa mia, perché siccome è uscito nel 2015 ha 5 pallini, non 4. Quindi semplicemente non è secondo, è primo, con 5 pallini. Voglio chiederti un'altra cosa, insieme a, adesso lo scopriamo, da lì. Però c'è un'altra cosa su cui voglio sì, sentire il tuo parere. Laszlo Nemes fa anche un'operazione di cinema particolare, perché gira il film in un formato ormai totalmente desueto, no? Che era il 4 terzi, che è il formato un po' del vecchio 16 mm come impostazione, con delle luci e con anche un'impostazione visiva che è praticamente una sorta di soggettiva per tutto il film. Sì, con camera a spalla, ma credo che anche quella è come se ti desse poi un sapore diverso, appunto, un sapore meno moderno. Meno spettacolare, ma più vero, perché tu vedi, quindi... il film non esce mai dal campo visivo del protagonista, esatto, sostanzialmente, cioè vedi quello che possono vedere i suoi occhi. E quindi ci entri dentro, assolutamente. Esatto, sì. Film veramente pazzesco questo. Figlio di Saul, che, come dire, ha 5 pallini e che quindi è il miglior film della stagione secondo il Morandini, ma lo è insieme a un altro film di cui c'è molto da riscoprire, che si intitola Human. He said you have to go back to your country. I said where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا تلت بيك او خيك وما ما في قانون حسبني بتسامحيني. E allora Luisa, questa è una scelta bella, sì, forte anche da parte vostra, è perché è un film, intanto spieghiamolo un po', è un film molto strano anche questo Human. È un documentario, diciamo, e quindi noi l'abbiamo spinto anche proprio per spingere i documentari, che abbiamo sempre cercato di dare un certo rilievo nel dizionario. Negli ultimi anni è un genere che sta tornando sempre di più, quindi lo spingiamo. Lui è un documentarista di lungo corso, ha scelto di girare 60 paesi, mi sembra, e ha intervistato centinaia di persone e ha montato 110 personaggi, diciamo, risposte su temi come l'amore, l'odio, la felicità, in una, come un caleidoscopio di immagini, di parlati, di suoni, di colori, di in giro per il mondo, che è fortissimo. Andrebbe visto, forse spezzettato, perché è molto lungo. C'è, se non sbaglio, una versione su YouTube che si può vedere di 4 ore rotti. Avendo tempo, come dire. Avendo tempo. Ma insomma, il superamento però del formato è tipico anche di chi ha molta audacia, sì, e di chi, come dire, pensa al cinema come una forma d'arte, no? Esatto. Poi, magari, ma a volte va bene, a volte va male, però comunque sì, uscire dall'ora e mezza, 2 ore... ne abbiamo parlato anche recentemente con Bruno Bigoni, no? Che ha fatto un film di 60 minuti, cioè i formati poi esistono anche per essere un po' violentati in certi momenti. Sì, beh, lui riesce proprio arte, riesce a rappresentare, fotografare la natura come fossero delle opere, anche perché ci sono un sacco di riprese dall'alto con immagini che mozzano il fiato proprio. E allora questo Human, ricordiamolo, di Yann Arthus Bertrand, durata dell'edizione uscita al cinema 191 minuti, quindi 3 ore e 10, però c'è anche quella da 4 ore su YouTube, potete andarvelo a recuperare. Una chiosa prima di dare la linea alla regia, Luisa, e poi parlare invece nella prossima parte di quello che è uscito in queste ore e che sta per uscire nel 2017. È una scelta questa doppia del miglior film dell'anno per il Morandini, molto molto cinefila, Il figlio di Saul e Human. Che spazio c'è secondo te ancora per la cinefilia, soprattutto da consumare al cinema, che è casa sua, è la casa della cinefilia? Secondo me lo spazio c'è, ci sarebbe, bisogna darglielo, bisognerebbe offrire, bisogna difenderlo. Non a caso nell'introduzione quest'anno della prima edizione Senza Morando abbiamo omesso la crisi del cinema, la crisi del mondo, la crisi economica, per parlare della passione. La passione di chi continua ad andare al cinema perché ama andare al cinema. Io la televisione la vedo pochissimo, e le serie TV ovviamente le vedo al computer, tra l'altro. Per me andare al cinema, anche quando ci vado 3-4 volte al giorno, è una gioia. E quindi mi capita di trovare dei ragazzi che fanno degli stage di cinema con me che hanno questa stessa passione. Quindi secondo me vanno aiutati, incoraggiati, e bisognerebbe dare più spazio possibile al cinema, fuori, non in casa. Assolutamente, il cinema è dove succedono davvero le cose, e forse, come dire che questi due film sono i due film più belli del 2016 aiuta anche a spaventare meno, cioè a non pensare a un film d'autore come un film difficile necessariamente, anzi molto spesso è molto più facile e molto più sopportabile di un film brutto commerciale che invece ti spacca la schiena dopo 30 minuti. Allora, questa è stata la stagione 2016, l'anno 2016 per il Morandini. Adesso sentiamo ancora come vanno le cose sulle strade, poi torniamo, perché ci sono un po' di film che sono usciti proprio in queste ore o stanno per uscire, e poi diamo un occhio veramente fugace a quello che succederà nel 2017. La rosa purpurea. Quarta parte di questa rosa purpurea di fine anno, il riassunto sul 2016 seguendo un po' la top 10 del dizionario Morandini l'abbiamo fatta, adesso puntiamo un pochino al presente e al futuro. Al presente perché, come dicevo in apertura di trasmissione, da qualche anno il primo gennaio, magari qualcuno evita la bagarre di Natale ma esce il primo gennaio. L'anno scorso è stato Checco Zalone con gli esiti che sappiamo. Adesso non è che basti uscire il primo gennaio per fare quegli incassi lì, no, però insomma, come dire, sicuramente ti togli via un po' di concorrenza se sei per esempio un film comico italiano. In questo caso invece le cose vanno diversamente, come accade da un po' di tempo a questa parte. Ci sono anche film, diciamo così, un po' più di qualità, che cercano un pubblico che è il pubblico del cinema un po' più d'autore. È il caso per esempio quest'anno di Patterson di Jim Jarmusch. Morning, Donnie. Everything okay? No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. L'avete sentito la sintesi in questo dialogo originale di Adam Driver, che è appunto un driver, tra l'altro, cioè un autista di pullman, di autobus, in questa Patterson, dove si svolge una vita placida, una vita tranquilla, con questa ragazza, una specie di figlia dei fiori post litteram, piena di gioia di vivere, di disegni, di poesie. È il racconto poetico, Luisa, di una coppia giovane che sembra quasi sapersi accontentare delle limitazioni, diciamo, della vita di oggi. Però è bello, interessante vedere, e non poteva essere forse che uno come Jim Jarmusch raccontare come il piccolo sogno americano, il sognetto americano oggi sia diventato un'altra cosa da quello raccontato dal cinema degli anni 50-60. Ma lui è un regista che spesso scava nel profondo così di storie apparentemente qualunque. E questo è stato presentato a Cannes. C'è tutta la descrizione della provincia e del loro rapporto, da quel che ho letto delle recensioni, per cui io credo che sì, che sia quello come dicevi tu, il sogno americano non c'è più e non avrebbe neanche nessun senso ripresentarlo nel 2017, ma che l'America resti un paese dove comunque si immagina e si pensa che la possibilità c'è, sì, e questo c'è nel film. Assolutamente, c'è nel film e, come dire, incarna il volto di Adam Driver, secondo me, che sta prendendo quota come attore, anche con le sue varie sfaccettature, perché è particolarmente adatto alla storia di un giovane uomo dentro una realtà molto molto sedimentata, molto ferma, molto statica, però non sono statiche le idee sue, che guida l'autobus scrivendo poesie su questo taccuino, né della sua compagna. Come dire, è una sorta di messa in contrapposizione, in contraddizione di due Americhe, di due visioni dell'America attraverso un personaggio che le incarna un po' tutte e due. E allora questo era Patterson, ma in questi giorni ha trovato la via della sala anche un altro film che appartiene a questo, come dire, a questo periodo di Capodanno, ed è un film che scomoda un nome gigantesco come il personaggio protagonista del suo titolo, cioè si chiama GGG, il grande, gigante, gentile, tratto dal racconto di Roald Dahl e messo in scena da Steven Spielberg. Le ragazze dicono che l'ora delle streghe è a mezzanotte, secondo me invece è alle 3 di notte. Quando io sono l'unica ancora sveglia, come adesso. Ma dove sono? In paese di giganti. Roald Dahl incontra Steven Spielberg, come dire, il più grande narratore cinematografico di storie di bambini e di crescita, per raccontare il dolore, per raccontare la speranza, insieme a un autore che, cioè, 20 anni fa sembrava non ci fosse, Roald Dahl, poi è stato dalla Fabbrica del Cioccolato in poi è stato ripescato, direi addirittura saccheggiato ormai. Sì, no? Sì. È un accoppiamento da sogno perfetto. Io ricordo di aver letto il libro a mio figlio 15 anni fa, 16 anni fa, ed è un'emozione ogni giorno leggere questa storia. Io credo che appunto Spielberg, che l'abbia ripreso, lo riproduca a un pubblico che non è solo il pubblico dei più piccoli, perché la storia coinvolge anche il pubblico dei ragazzini e sempre degli adulti, è magico, è divertente, emozionante, è bellissimo. La storia di un gigante che lo ricordiamo, fra virgolette, rapisce una bambina sì. dal suo letto e lo porta in questo paese dei giganti, dove lui è il più piccolo di tutti e quindi dove tutto si riverbera, anzi diventerà una sorta di consigliera questa bambina per questo grande gigante gentile che la vuole proteggere in un certo modo. Non andiamo oltre la spiegazione, non vogliamo spiegare molto, però ecco, c'è sicuramente questa tenerezza, no, nel rapporto che, come dicevo, pensiamo solo a E.T., tanto per dire la cosa più banale, fa parte proprio del bagaglio di Spielberg, no? Che poi Spielberg è una garanzia comunque da tutti i punti di vista, sia dello spettacolo che dei contenuti. Non ci tradisce sicuramente mai. Steven Spielberg, altro film che è arrivato in questi in queste ore, direi quasi, nei cinema italiani, e da una parte Mister Felicità Siani, e quindi siamo, ecco, nel tentativo di fare il colpo gobbo di Zalone dell'anno scorso, cioè cinema comico, anzi con un protagonista di alcuni dei film comici più riusciti in termini di pubblico degli ultimi anni. Parliamo anche di Passengers, però, perché lì qui invece si scomoda un po' una fantascienza un po' più classica, se vogliamo, quella del viaggio nello spazio, che però a un certo punto si interrompe per motivi oscuri. Ci sono visite. Wow. Anche tu non sei niente male. Hai fatto shopping? Veramente l'ho rubato. Siete molto eleganti stasera. Mi ha invitata a cena. Molto bene. Ce ne hai messo di tempo. Ti ho lasciato spazio. Oh, spazio. L'unica cosa di cui non ho bisogno. In effetti. C'è dell'ironia effettivamente in questi dialoghi, perché la storia di due personaggi che viaggiano nello spazio, però la macchina del tempo, diciamo così, si ferma 90 anni prima del previsto, quindi non giungono a destinazione, hanno una certezza, continueranno a viaggiare per tutto il resto della loro vita naturale insieme, solo che questi due sono Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Insomma, ho sentito tante battute su, vabbè, però rimanere solo con Jennifer Lawrence non è... Sì, però anche rimanere sola con Chris Pratt non è malissimo. Tutti contenti, uomini e donne. A parte le battute sulla loro fascino, la loro bellezza, sono anche bravi entrambi. Assolutamente. È un film che richiama ancora appunto gli Alien, i film di fantascienza più classici, con l'astronave, con anche 2001 a modo suo. Anche perché questa astronave ha 5.000 passeggeri che stanno lì che dormono, quindi come dire, sicuramente hanno una grossa responsabilità. Per cui no, assolutamente da vedere, non solo per chi ama il genere. Fantascienza non è tra i miei generi preferiti, però qui c'è dell'intrigante, insomma. Sì, diciamo. Assolutamente. Luisa, abbiamo pochi minuti. E allora buttiamo un attimo un occhio su quello che sarà il 2017 tutto del l'anno. Cinema, tutto l'anno. Ovviamente io titoli qui ne ho una valanga, tanta fantascienza, Alien, Covenant, fantasy. Tanto fantasy, tanto ritorno a qualcosa che c'era già stato, sì. Lynch che ha fatto Twin Peaks, i sequel, sì. Anzi, facciamo così, parliamo e sentiamo la clip di Trainspotting 2. Ah. Ciao Mark, allora che hai combinato in questi 20 anni? Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Mi sei mancato, Mark. Sì, anche tu, Spud. Scegliete di cercare vecchie fiamme desiderando di aver agito diversamente. Ti fai ancora di eroina? No. E scegliete di osservare la storia che si ripete. Ciao, Franco. Simon, sono a casa. Beh, questo sono a casa ricorda tanto il Star Wars e l'arrivo di Harrison Ford vicino all'astronave. No, però effettivamente l'operazione è interessante, Luisa, sì. Perché Danny Boyle, stesso regista, i quattro protagonisti del film sono gli stessi del primo film del 1996, quindi ben 20 anni fa, e sono Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller ed Ewan Bremmer. È un film che ha fatto epoca ai suoi tempi, e adesso che cosa può dire al pubblico nuovo? Ma bisogna vedere fin dove arriva l'omaggio a quello che è stato e quello che ha significato Trainspotting, e fin dove arriva, vabbè, dato che i film numeri due ce ne sono tanti nella stagione prossima, mi domandavo fin dove arriva invece la scarsità di fonti per cercare idee o la mancanza di idee nuove, perché cioè, sia in Italia che soprattutto in America stanno facendo, usciranno nel 2017 terzi, secondi, remake, sequel, prequel, ormai si fa di tutto. Per chiudere, però, è chiaro, è fin troppo facile, però insomma è evidente che il film più atteso del 2017 è Star Wars 8, secondo episodio della nuova saga di Star Wars targata Disney. Sentiamo. Is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Without a Jedi, there can be no balance in the force. E allora, Luisa, il capitolo 7, l'episodio 7, secondo me aveva vinto la scommessa, al di là di quella del botteghino, cioè di far arrivare al cinema chi quella, la mia generazione, chi quello Star Wars ce l'aveva nel sangue, ma anche di portarci un pubblico nuovo, cercando di non deludere nessuno, di non essere troppo difficile per il pubblico nuovo, ovviamente, quindi con delle concessioni di narrative, ma anche tutto sommato di non far gridare allo scandalo chi arrivava da un'altra storia. Avevamo lasciato i protagonisti sul cucuzzolo di una montagna, no? Dopo questa lunga ricerca, e qui tante cose si spiegheranno. Però devo dire, questo Star Wars targato Disney non è stato, a mio modo di vedere, così male. I rischi che si banalizzasse troppo la storia, che diventasse un brand, secondo me erano più alti. Non so se tu sei di questo parere. Sì, ti dirò che sono andata a vedere tutti i film della saga proprio in memoria dell'impressione che mi aveva fatto nel 77 il primo, che era stata una roba pazzesca. Per cui comunque a modi alterni, perché insomma non è che sono tutti dello stesso livello, però sì, che su quest'ultimo ci sia una rinascita, sì, sono d'accordo. Soprattutto narrativa, sembra che, esatto, sì, proprio sì. Che la storia è una storia che ti prende e ti fa pensare chissà cosa succede adesso. Non so perché, ho anche pensato che è in salita anche il prossimo, però magari sarò delusa e ci ritroviamo l'anno prossimo. Spero di no, vedremo. C'è un anno di tempo per capire com'è andata con Star Wars 8. Io direi che Luisa Morandini possiamo darci appuntamento fra un anno. Fra un anno siamo qui e racconteremo i film del 2018, ma spiegheremo e recensiremo e partiremo proprio da Star Wars. Okay. Allora, grazie Luisa Morandini che è stata con noi. Buon anno. Tornerai, non abbiamo avuto tempo a parlarci dell'eredità di Morando e della sua biblioteca, perché ci sono progetti grossi che vogliamo seguire e stiamo seguendo qui da Radio 24. Grazie Luisa. Grazie a voi. Ci sentiamo sabato prossimo, puntata regolare, diciamo, con tutte le prime uscite del 2017. Un saluto da Franco D'Assisi.